Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un maxi incidente in A4 in Veneto rallenta il riversarsi degli attesi transiti record sulla rete autostradale regionale. Aumentano in regione le famiglie che presentano dichiarazioni ISEE, quasi 30.000 i nuclei con reddito inferiore ai 6.000 euro. Traffico merci in crisi, in regione mancano autisti, 200 in meno, dice la CGA di Mestre, ma per la federazione sono il doppio. Sculture come poesie, in inaugurazione a Porto Piccolo, l'esposizione dedicata a Marcello Mascherini, tra i protagonisti dell'arte del Novecento. Compositore, produttore, DJ, l'anglo-russo Gabriel Prokofiev, nipote di Sergei Prokofiev, a Pordenone con Pastorale 21. Calcio udinese buono l'esordio nel primo match ufficiale della stagione per i bianconeri di Rognaez in Coppa Italia, 4-0 contro l'Avellino. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio con la situazione del traffico in questo sabato da bollino nero per il secondo fine settimana di esodo agostano sulle autostrade della regione. I primi rallentamenti si sono registrati già nelle primissime ore del mattino in A4, transiti davvero elevati, quelli attesi tra oggi e domani, tra 160.000 mezzi sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Ma sentiamo qual è la situazione in questa tarda mattinata con Livia Liberatore, che si trova nell'area di servizio di Gonars Sud. Siamo in quello che è uno dei punti più critici della A4, quello tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Al momento qui la situazione del traffico è abbastanza tranquilla. Si stanno solo formando alcune code da pochi minuti allo svincolo per prendere la A23 e andare verso Tarvisio e l'Austria. Code si sono formate anche stamattina presto, poi ci sono state alcune ore di traffico scorrevole perché un grosso incidente con 10 vetture coinvolte sul tratto veneto della A4 ha comportato la chiusura fino a poco fa dell'autostrada tra Meolo e San Donà di Piave e fatto da tappo al previsto afflusso record in direzione Trieste, che quindi avverrà a questo punto tra poco. Presa d'assalto l'area servizio di Gonars, dove abbiamo incontrato viaggiatori diretti soprattutto in Croazia, alle prese anche con un grande caldo. I punti più critici per il traffico oggi sono i caselli per le località balneari. Per tutta la mattina è stata congestionata l'uscita di Latisana per andare in spiaggia a Lignano e quella di Cervignano verso Grado, e poi la barriera di Trieste-Lisert, dove al momento c'è 1 chilometro di coda. Ricordiamo che dalle 8 alle 22 mezzi pesanti non circolano, che lungo la rete autostradale ci sono 220 operatori della società Autostrade Alto Adriatico a controllare la situazione, e solo per oggi anche 2 presidi sanitari a San Donà di Piave e a San Giorgio di Nogaro. È questo il weekend più critico del mese. Tra oggi e domani è previsto il transito di circa 360.000 mezzi sulla rete di autostrade Alto Adriatico, numeri che confermerebbero quanto già si è visto lo scorso fine settimana, quando si è registrato un flusso di traffico in aumento del 5,8% nella giornata dello scorso sabato rispetto al corrispondente dello scorso anno e del 9,3% nella giornata di domenica rispetto a un anno prima. E domani è previsto bollino rosso, linea a voi. Grazie a Livia Liberatore. Come avete sentito nel suo collegamento, è dunque il maxi tamponamento avvenuto in Veneto poco prima delle 9 a condizionare ancora la situazione del traffico sulla tratta regionale della 4. Sull'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà, Mestre e Treviso con 3 autopompe e un autogru. 3 le persone che sono state estratte dalle auto, 2 trasportate in elicottero in ospedale. Come avete sentito, è stato riaperto da proprio pochissimi minuti il tratto della 4 che era stato prima chiuso e il traffico è tornato a scorrere sulle 3 corsie. La cronaca in seguimento: nella tarda serata di venerdì, lungo l'autostrada A23, nel tratto compreso tra Tarvisio in direzione Udine, da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Amaro, che ha intercettato all'altezza di Moggio una vettura in transito con andatura irregolare. Quando gli agenti si stavano affiancando per intimare l'altro, il conducente ha prima finto di accostare e poi è ripartito, iniziando una fuga a velocità elevatissima, interrotta dopo oltre 30 chilometri, quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo in sicurezza il mezzo. Sottoposto alla prova etilometrica, il guidatore è risultato positivo, con valori che superavano due volte il limite consentito. Numerose le violazioni amministrative per manovre pericolose, mentre sono in corso verifiche sulla patente di guida estera non esibita. E la scorsa notte alla barriera autostradale di Lattisana ci sono stati controlli approfonditi sui veicoli provenienti da Lignano, Sabbia d'Oro. 169 le auto fermate e controllate, 170 le persone sottoposte ad alcol test, 2 quelle positive, con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti. Per entrambe è scattato il ritiro della patente e la decurtazione punti. La polizia continuerà il monitoraggio straordinario durante il periodo di Ferragosto e i prossimi fine settimana estivi, con controlli mirati nella località balneare e lungo le autostrade A4 e A23. 12.36, passiamo al meteo. Il cielo è sereno su quasi tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 31 gradi e mezzo, il mare poco mosso con temperatura di 28 gradi e mezzo, a Gorizia 32 gradi e mezzo, Pordenone 32, Udine 31 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 28, Forni di Sopra 25 gradi e mezzo, Tarvisio 25, Sappada 24, Piancavallo 22 gradi, in quota sul Monte Zoncolani, sul Monte Lussari 18 gradi e mezzo, sulla costa Grado 31, a Lignano 30 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 28 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi pomeriggio cielo sereno al più, poco nuvoloso nel pomeriggio sulla fascia alpina, venti a regime di brezza, temperature in aumento. Domani cielo in prevalenza sereno con qualche nube pomeridiana sui monti, farà caldo con temperature in ulteriore aumento, venti a regime di brezza che tenderà ad attenuare il caldo di pomeriggio sulla costa. Aumenta ancora in Friuli Venezia Giulia il numero di nuclei familiari che presentano la dichiarazione unica per il calcolo dell'ISEE, l'indicatore che individua le condizioni economiche effettive delle famiglie e che è uno dei principali criteri di accesso alle prestazioni sociali erogate dagli enti pubblici. Il quadro è stato rielaborato dall'Istituto IRES del Friuli Venezia Giulia su dati INPS. Sono quasi 30.000 le famiglie in regione che presentano un ISEE inferiore ai 6.000 euro e di queste 30.000 più di 4.000 presentano un ISEE uguale a zero. La soglia dei 6.000 euro è una delle prerogative per accedere al supporto per la formazione e il lavoro, che prevede anche un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi. Questa misura ha supportato nel primo semestre dell'anno più di 500 persone. L'ISEE sotto i 6.000 è però solo uno dei requisiti per ottenere l'assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, fa notare Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES che ha anche elaborato i dati. Si può comunque rilevare che i nuclei più poveri, quelli con un ISEE inferiore ai 6.000 euro, sono quasi 30.000 in regione a fronte di appena 4.000 beneficiari dell'assegno di inclusione, lo strumento che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Le persone che in regione vivono in nuclei con un ISEE inferiore a 6.000 euro sono quasi 66.000, pari al 5,5% della popolazione residente. Solo in Trentino Alto Adige, in Veneto, si rileva un'incidenza inferiore. La provincia in regione con il maggior numero di ISEE sotto la soglia dei 6.000 euro è Trieste, quella con la minor incidenza è Pordenone. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La CGA, la Confederazione degli Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, stime alla mano, ha rilanciato l'allarme sulla carenza di autisti, che si fa sempre più grave. A dirlo sono anche le associazioni di categoria, e il fenomeno nei prossimi anni rischia di avere pesanti ricadute anche in regione. Autisti sempre più introvabili, a dirlo ora sono anche i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Ne mancano almeno 200 in Friuli Venezia Giulia. Diminuiscono intanto le ditte di autotrasporto, costrette per effetto anche delle varie crisi economiche degli ultimi anni a riorganizzarsi con acquisizioni e aggregazioni di impresa. In 10 anni la regione ne ha perse oltre 570, stando ai calcoli della CGA. A livello percentuale, una delle situazioni più critiche in Italia. Udine è in regione la provincia col più alto numero di imprese di autotrasporto, oltre 600. Seguono Pordenone, Trieste, Gorizia. Si segnala anche il calo generale di patentati per il trasporto merci. Le fasce di età tra i 30 e i 54 anni hanno subito un crollo e il modesto aumento dei neopatentati, anche grazie agli incentivi, non basta affatto a colmare la carenza, che si fa sempre più grave. Secondo gli analisti di questo passo, nel giro di qualche anno il settore potrebbe scivolare in una grossa crisi, mettendo a rischio la consegna delle merci, che in Italia per l'80% viaggia su gomma. Qualche segnale preoccupante, ricordano gli osservatori, si sta già vivendo nel trasporto pubblico locale, dove la mancanza di autisti sta facendo diminuire in misura preoccupante l'offerta di mezzi. Previsioni confermate anche dal segretario regionale della Federazione Autotrasportatori Italiana, Giulio Zilio, che raddoppia le stime della CGA e segnala una carenza in Friuli Venezia Giulia di 400 autisti. Una situazione dunque peggiore che per Zilio sta provocando forti tensioni nel settore per la ricerca di personale, con l'età media degli autisti che ormai è di oltre 50 anni e il ricorso sempre più diffuso da parte delle aziende di conducenti stranieri o dipendenti pensionati sessantenni ai quali viene chiesto di restare. Sullo sfondo la guerra a chi offre di più per accaparrarsi gli autisti. Con gli accordi aziendali interni, spiega Zilio, gli stipendi possono arrivare fino a 2.200 euro nel trasporto leggero e a 2.800-3.000 euro in quello pesante. Sul mercato a farla da padrone sono ormai soprattutto stranieri dell'est Europa e da ultimo nordafricani, pakistani e bengalesi, anche tra quanti decidono di mettersi in proprio. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. San Lorenzo e stelle cadenti, binomio da calendario, ma quest'anno lo sciame di meteoriti osservabile, attivo già da metà luglio e proseguirà ancora per diversi giorni. In questo servizio le spiegazioni degli esperti di astronomia e i consigli per osservare il fenomeno. La tradizione dice che il 10 di agosto, notte di San Lorenzo, sia la giornata più adatta per assistere al fenomeno luminoso delle cosiddette stelle cadenti. In realtà, anche quest'anno, il picco sarà tra il 12 e il 13, quando lo sciame meteorico raggiungerà la massima attività. Un'osservazione favorita quest'anno dalla quasi assenza del disturbo lunare, che non interferirà eccessivamente con la visione delle meteore. Non è necessaria nessuna attrezzatura speciale per ammirarle, basterà l'occhio nudo. Bisognerà recarsi in un luogo privo di altre fonti luminose ed attendere lo spettacolo. Stelle cadenti dunque, anche se si tratta di un evento diverso. Giulia Iafrate, dell'Osservatorio Astronomico di Basovizza. Diciamo subito che non sono stelle, perché le stelle per fortuna non ci cadono in testa, sono dei frammenti di roccia molto piccoli, come dei granelli di sabbia, che entrando nell'atmosfera terrestre si disintegrano, si incendiano e lasciano la scia che noi vediamo a occhio nudo. Altra indicazione da seguire è quella di guardare il cielo verso la costellazione del Perseo, situata a nord-est a mezza altezza nella parte finale della notte, stando attenti a non confonderli con altri fenomeni luminosi o oggetti celesti. Fate attenzione a non confondere un satellite, che è un oggetto debolmente luminoso che si muove lentamente in cielo, cioè impiega diversi minuti a percorrere la volta celeste, con una meteora, che invece è un fenomeno velocissimo perché dura 1 o 2 secondi al massimo, lasciando la scia luminosa. Un evento che nella storia ha radici molto antiche, legate a tradizioni pagane romane attorno al 258 d.C., che a detta degli esperti proseguirà ancora per moltissimo tempo. Nel giro di migliaia, milioni di anni questo sciame potrebbe esaurirsi, perché è dato dai detriti lasciati da una cometa dietro di sé. Questa cometa passa intorno al Sole ogni 133 anni e passaggio dopo passaggio, un po' alla volta, si consuma. Però passeranno veramente migliaia e milioni di anni prima che il fenomeno si esaurisca. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Porto Piccolo, nel comune di Sistiana, è oggi inaugurazione la mostra dedicata a uno dei grandi scultori del Novecento, Marcello Mascherini. L'allestimento espone sculture, opere grafiche e documenti d'epoca. In autunno sarà nel castello di Kronberg, a Nova Gorizia. Abbiamo visitato la mostra in anteprima. Francesco Bordin, curatore della mostra a Porto Piccolo, è responsabile dell'archivio Marcello Mascherini, una mostra che mette al centro in modo inedito il rapporto di Marcello Mascherini, scultore, con i suoi contemporanei scrittori, poeti, e quello che loro dicevano delle opere di Marcello Mascherini. Che cosa troviamo in questa mostra? In questa mostra abbiamo fatto una selezione attenta di sculture provenienti dalla collezione dell'artista, più una scultura emblematica proveniente da un collezionista esterno, opere grafiche, tra cui disegni, acqueforti e litografie. Ogni opera è stata abbinata a dei commenti di poeti o scrittori, qualche critico d'arte, perché ci è sembrato di associare proprio il giudizio di questi letterati con l'opera d'arte, che è una curiosità, possiamo dire, inedita, come ha detto lei, sull'arte di Marcello Mascherini. Credo che pochi altri scultori o pittori, artisti, abbiano avuto un abbinamento del genere così fitto, così veramente ricco di rapporti interpersonali, di conoscenze reciproche, di amicizie profonde. Faccio l'esempio di Biagio Marin, per esempio, il poeta di Grado, Fulvio Tomizza, scrittore esiliato, ma anche Cavrantotti Gambini, Silvio Benco per primo, il quale ha seguito Mascherini fin dagli esordi da diciottenne, Gianni Stuparic e tantissimi altri. Menziono anche Giuseppe Ungaretti, ma anche Stelio Crise, una persona molto importante per Mascherini nella sua maturità, che ha seguito appunto l'opera e lo ha aiutato in molte occasioni. E naturalmente la Casa di Sistiana faceva da centro di accoglienza. Mascherini voleva sempre persone attorno, ogni giorno c'era qualcuno, mi racconta mia moglie, nipote dell'artista, che veramente la casa era sempre ricca di persone e Mascherini era contento di avere persone. La casa è molto grande, è una casa museo, e quindi da questa casa abbiamo portato alcune opere che abbiamo ritenuto veramente importanti per la mostra di Porto Piccolo. Porto Piccolo, tra l'altro, sta proprio di fronte alla casa e quindi fa parte della natura e dell'ambiente che ha ispirato Mascherini nelle pietre, quindi nel bronzo. Sistiana, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Sauris questa sera alle 20.30 nella sala Gradoni Corsa, il grande concerto conclusivo della settimana della Fisarmonica, che negli ultimi 10 giorni ha portato nel borgo montano musicisti professionisti e semplici appassionati dello strumento. Vengono da Stati Uniti, Europa, Sud America, tutti accomunati dalla passione per la fisarmonica, tutti nel piccolo borgo montano di Sauris per un campo estivo organizzato da Peter Soave, nato a Detroit in Michigan, da italiani emigrati da Cassino. Sono 17 anni e tramite un amico che ha una casa qui mi parlava di Sauris 18 anni fa e ho detto sinceramente non so dove è, è qui in Italia, veramente, sì, è un luogo meraviglioso, devi andare. E siamo rimasti innamorati subito, come si dice in English, love at first sight. A promuovere la manifestazione è il coro Zare, istituzione musicale del posto. Il direttore del coro, Christian Petris. Quest'anno sono circa una trentina i partecipanti che si alternano, qualcuno rimane 2 settimane, qualcuno solo una settimana, qualcuno viene qualche giorno. Perché proprio la fisarmonica? Ancora Soave. È la voce del popolo. Oh, in Italia, certo, rappresenta il folk, ma anche in Francia, anche in Germania. Una volta ero in Egypt. In Tennessee, si trova in Texas, in Messico, in Colombia. La fisarmonica è veramente il strumento che trasmette tutti i sentimenti dell'uomo. Il campo estivo mette fianco a fianco musicisti, professionisti e semplici amatori. Sto suonando con artisti di altissimo livello, sicuramente molto più bravi di me, e questo mi spinge a impegnarmi di più e a suonare sempre meglio. Tutti con la voglia di coniugare musica e natura. Stiamo passando delle giornate splendide, mi piace davvero molto stare qui e suonare assieme è proprio la ciliegina sulla torta. La bellezza della natura di questo paesino è qualcosa che ispira. Ci sono persone meravigliose, si mangia benissimo e l'ospitalità è eccezionale. È difficile concentrarsi sulla musica con una vista così bella fuori. Sauris, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il compositore, produttore e DJ anglo-russo Gabriel Prokofiev, nipote del compositore Sergei Prokofiev, si esibirà nel concerto Pastorale 21, che state ascoltando in sottofondo, con il sestetto Verbier Festival Academy per esplorare il concetto di pastorale in chiave postmoderna e, partendo dalla Sesta Sinfonia di van Beethoven, scriverne una sorta di risposta con particolare attenzione ai temi dell'ambiente. Sul palco anche i suoni della natura, registrati nelle Alpi svizzere e rielaborati elettronicamente dall'artigianato compositivo di Prokofiev. Appuntamento a Pordenone all'Arena Pescheria alle 21 con ingresso libero. Un appuntamento di teatro al Teatro Basaglia all'aperto del Parco di San Giovanni di Trieste per Restate in Armonia, la commedia musicale Che Scandalo, dalla Rosa Gialla di Camillo Vittici alle 21. Oggi e domani è in calendario il Palio di Paluzza, evento rievocativo che da 38 anni vede sfidarsi Contrada in rappresentanza non solo delle frazioni del paese, ma anche dell'intero territorio limitrofo al comune, in una corsa con gli antichi mezzi di trasporto tipici, cioè la sale con ruote e timone e la slitta in legno. Oggi in calendario l'apertura dei chioschi che propongono piatti tipici locali dalle 18.30 e l'allestimento dell'accampamento medievale presso il parcheggio antistante all'Albergo Italia. Alle 21 seguirà il concerto con i 5 uomini sulla Cassa del Morto, mentre la sfilata Miss Palio è in programma alle 23, conclusione alle 24 con lo spettacolo pirotecnico. E ora lo sport. In Coppa Italia oggi l'esordio ufficiale di stagione per la Triestina, che affronterà il Trento allo Stadio Rocco alle 18, ieri sera invece al Friuli. Il percorso in Coppa dell'Udinese è iniziato con un secco 4-0 all'Avellino. Attaccanti, Toven capitan qualità e la conferma di una squadra in crescita. Migliore esordio stagionale non poteva esserci per mister Rugnaic e i bianconeri friulani contro un Avellino punta di diamante della Serie C in Coppa Italia. Irpini che reggono bene il confronto per 30 minuti prima dell'accelerata di Brenner, sua l'idea dell'1-2 con Toven e sua la conclusione, un bacio al palo e primo gol della stagione ufficiale. Toven offre un assist al bacio anche a Lucca che di testa coglie la traversa prima del riposo. Nella ripresa l'Udinese dilaga. Dopo una lunga consultazione VAR, il tocco di mano di Armellino nel contrasto aereo con Lucca viene considerato da rigore. Dal dischetto Toven segna senza rincorsa. Palmiero perde palla a centrocampo e l'Udinese va sul 3-0. Brenner lancia Toven che serve Lucca sul lato opposto, destro di prima intenzione e pallone sotto la traversa. Ma personalità e orgoglio non mancano all'Avellino. Ci vuole un miracolo di Okoye sul colpo di testa di Russo da distanza ravvicinata per negare il gol della bandiera agli irpini. La gara si chiude con il poker calato dall'Udinese. Il fresco Samardžić serve Davis sul filo del fuorigioco e l'attaccante, autore del gol salvezza nella stagione scorsa, ricomincia a segnare con un dolce pallonetto. Ai sedicesimi di Coppa Italia, l'Udinese se la vedrà con la vincente di Salernitana Spezia. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Buia ha accolto ieri sera il ritorno a casa del ciclista Jonathan Milan, vincitore della medaglia di bronzo conquistato nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi. Un successo inferiore rispetto a quello conquistato a Tokyo nel 2020, ma l'emozione del ritorno nel paese in cui ha iniziato a pedalare non è stato per Milan meno intenso. Ma sentiamo cosa ha detto il ciclista, circondato da familiari, amici e sostenitori. È bellissimo, no? Poi sapere quanto tifo è stato fatto da casa non è da poco e non è da tutti. Sapevamo lo stesso che si poteva fare bene ed eravamo andati per far bene e l'abbiamo fatto. E certo sapevamo altrettanto che c'erano queste nazionali forti. Abbiamo dato il nostro meglio e siamo tornati a casa con questo bronzo che insomma vuol dire tanto. Chiusa questa parentesi olimpica, un po' di riposo e si ricomincia con la strada, con il sogno del Tour de France, forse già tra un anno. Se non è il prossimo sarà quello dopo e il sogno è poco ma sicuro, è un grande obiettivo che magari nei prossimi anni mi piacerebbe raggiungere. Buia, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vela, i triestini Giuseppe Montesano, Tipica Passirena, Enrico Kozlovic del Circolo della Vela di Muggia hanno vinto il campionato mondiale della classe 29ers Under 17 disputatosi in Danimarca ad Aarhus. I ragazzi si sono confrontati su ben 18 prove con altri 257 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Ottimo anche il sesto posto assoluto che li ha visti in competizione con velisti adulti che hanno molte più miglia alle spalle. E per l'iniziativa Le Notti del Vino è in calendario una notte speciale in occasione di San Lorenzo a Bertiolo nel parco della cantina Cabert alle 19.30. Anche a Povoletto si celebrano Le Notti del Vino in Villa Pitotti dalle 19.30. Ad Aquileia proseguono anche stasera Le Notti del Vino nella cornice di Piazza Capitolo con vino del territorio e degustazioni dei sapori dell'agro aquileiese con ingresso e partecipazione al tour archeologico.